Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Con l'accordo di ieri abbiamo superato gli effetti più distorsivi di una norma che non condividevamo. Adesso lavoriamo per rafforzare le garanzie nel processo penale e renderlo più efficace. Queste le parole, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di Andrea Orlando del Partito Democratico, ex ministro della giustizia, dopo l'accordo raggiunto ieri sera in extremis, dopo le 22, praticamente alla fine, appena era finito effetto notte, accordo tra PD, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali sul tema, sul nodo caldo della prescrizione. Ma Italia Viva di Renzi non ci sta, continua a ribadire che la maggioranza di governo potrebbe rischiare al Senato. E poi ce ne occuperemo naturalmente di quello che ancora fa friggere, diciamo, la maggioranza di governo. Poi ci concentreremo su una sentenza importante della Cassazione su il caso della morte del 21enne Marco Vannini nel 2015, che coinvolge tutta la famiglia della fidanzata. Ne parleremo con il legale della famiglia Vannini. E poi aggiornamenti sul coronavirus con un'importantissima ricerca italiana sulle origini di questo coronavirus. Per i vostri commenti, le vostre riflessioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, naturalmente per voi lì comodamente, oppure SMS e WhatsApp li potete inviare al 349-238-6666. Poi c'è il Twitter durante la giornata per aggiornamenti, Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano, oppure durante la diretta di il Twitter di Effetto Notte. E quindi tra pochissimo, dopo la sintesi della giornata, partiamo con gli ospiti, faremo naturalmente anche un collegamento con il Festival di Sanremo. Governo e la giustizia agita la maggioranza, Renzi boccia il compromesso sulla prescrizione, ma il ministro Bonafede dice andiamo avanti. Coronavirus, l'italiano positivo al virus è in buone condizioni, dice di sentirsi tranquillo. Di Maio conferma i voli Italia-Cina ancora chiusi. A Effetto Notte ci sarà il coordinatore della più grande analisi comparativa sul genoma del virus. L'omicidio di Marco Vannini, la Cassazione dispone l'appello bis, nuovo processo quindi per tutta la famiglia Ciontoli. Il boss Graviano in videoconferenza dice vidi Berlusconi tre volte da latitante, l'avvocato Ghedini però replica dichiarazione priva di fondamento. Sanremo, quarta serata dopo le prime tre da record. Calcio in campo Roma-Bologna, partita che apre la 23esima di Serie A maschile, Ibrahimovic pronto per il derby. Partiamo quindi dalle manovre del governo, dopo l'accordo raggiunto ieri in serata sulla prescrizione tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, il leader di Italia Viva Renzi ribadisce che non ci sta a sostenere questa intesa. Questo accordo a tre, a mio avviso, dice, non ha la maggioranza in Parlamento. E sul governo smentisce le indiscrezioni che parlano di un appoggio esterno di Italia Viva, dice noi non vogliamo lasciare. Poi, se il Presidente del Consiglio, dice Renzi, vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d'ora. Il Ministro della Giustizia Bonafede dice andiamo in Consiglio dei Ministri su questo testo, si valuta l'ipotesi di decreto legge per approvare il lodo Conte bis. Il segretario del PT Zingaretti dice che si stanno facendo passi avanti ma che Italia Viva resta ambigua. Per Conte, Presidente del Consiglio, non è il momento dell'ideologia, basta rinvii, dice, tempo di decisioni, confido che tutte le forze di maggioranza riescano a condividere la medesima ragionevole posizione. Su tutto questo ci torneremo tra breve. Invece sul coronavirus è in buone condizioni il ricercatore reggiano di 29 anni ricoverato allo Spallanzani di Roma e risultato positivo al test del coronavirus dopo il primo tampone alla Cecchignola dove si trovava insieme ad altri 55 italiani. Allo Spallanzani attualmente ci sono 11 ricoverati, 5 in attesa del risultato del test. In Italia non c'è circolazione locale del virus, specifica l'Istituto Spallanzani, restano chiusi intanto i voli tra Italia e Cina. E dopo il picco di quasi 4.000 nuovi contagi in Cina in un solo giorno, il 5 febbraio, il numero di nuovi casi è calato per due giorni consecutivi. Stanno tutti bene gli italiani sulla nave in Giappone. I laboratori di tutto il mondo intanto lavorano a tempo pieno sul coronavirus per cercare possibili terapie, test diagnostici efficaci e un vaccino per contrastare l'epidemia. Radio 24 ha ascoltato i protagonisti di questa nuova sfida globale, i cacciatori di virus. Sconfiggere il coronavirus, mettendo a punto test diagnostici sempre più rapidi ed efficaci, individuando modelli per prevedere l'evoluzione dell'epidemia, capire con più precisione le modalità del contagio, formulare un vaccino in grado di bloccare la trasmissione del patogeno. Sono gli obiettivi, i sogni e le ambizioni dei nuovi eroi della salute umana, i ricercatori. Cacciatori di virus è il titolo del reportage che andrà in onda su Radio 24 sabato 8 febbraio alle 8:15 e in replica alle 14:05. Un viaggio nei laboratori che potrebbero segnare una svolta nella lotta all'epidemia, a partire dal racconto dei protagonisti, gli scienziati che stanno lavorando nei centri di eccellenza italiani, la rete sui test diagnostici dell'OMS Europa, uno dei massimi esperti mondiali di vaccini e l'industria in prima linea nella ricerca. Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Posso garantire che ci sono già tante aziende farmaceutiche che stanno lavorando su questa sequenza per trovare il vaccino giusto. E tra l'altro questo è avvenuto in concomitanza con il World Economic Forum che c'è stato a Davos, dove addirittura i leader mondiali dell'industria che erano riuniti lì hanno proprio annunciato e concordato una mobilitazione collettiva per evitare ovviamente l'ulteriore diffondersi dell'epidemia, ma anche e soprattutto per lo sviluppo di metodi diagnostici e di farmaci efficaci, tra cui i vaccini. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel corso di questa puntata, vi dicevo, sarà ospite il coordinatore della più grande analisi comparativa sul genoma del virus. Abbiamo parlato poi nei giorni scorsi anche dell'impatto economico del coronavirus. Tanti infatti sono i settori colpiti, in crisi anche gli affitti brevi. Si estende anche al mondo degli affitti brevi l'allerta coronavirus. Per gli host dei 415.000 appartamenti Airbnb ha scelto di prendere subito dei provvedimenti. Si informa sul suo sito che il turista o l'host sono autorizzati a cancellare gratuitamente la prenotazione dell'alloggio o l'esperienza Airbnb qualora temessero conseguenze di salute. Questa indicazione è relativa a ospiti e host che hanno effettuato o ricevuto prenotazioni entro il 1 febbraio 2020 per soggiorni nella provincia cinese Hubei con data di check-in entro il 1 aprile 2020, oppure ospiti che viaggiano dalla provincia cinese di Hubei verso qualsiasi destinazione globale e che hanno prenotato soggiorni nel resto del mondo. Ha attivato la procedura relativa alle cause di forza maggiore anche Booking, cause che si applicano a tutte le strutture nella Cina continentale e a tutti gli ospiti che hanno effettuato una prenotazione da questa zona. Al momento questa misura sarà applicata a tutti i soggiorni con il check-in fino all'8 febbraio 2020 incluso. E in genere, lo ricordiamo, sui portali per cancellare normalmente una prenotazione si devono considerare i termini di cancellazione che indicato l'host nell'annuncio, termini che in genere variano in base all'alloggio e al tempo rimasto prima del check-in. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E all'indomani del deragliamento del Frecciarossa nei dintorni di Lodi, quello di oggi è stata una giornata di scioperi, difficoltà per gli spostamenti e di indagini, ritardi e cancellazioni su tutta la rete per due ore di astensione indette dalle principali sigle sindacali che hanno incontrato i vertici di FS Trenitalia e di RFI. Le trattenute dello sciopero saranno devolute alle famiglie dei due macchinisti morti nell'incidente, hanno fatto sapere i sindacati che hanno concordato con l'azienda un ulteriore impegno per la sicurezza. Intanto i binari dove è avvenuto il deragliamento ieri mattina restano sotto sequestro e nelle indagini ora si punta sulla mancata segnalazione alla centrale dello scambio aperto. Un errore umano ma anche una falla di sistema, perché la centrale di Bologna non vede che quello scambio era aperto e dà l'autorizzazione a partire? Passate altre ore dal deragliamento del Frecciarossa, nuovi elementi si aggiungono nell'indagine sull'incidente costato la vita a due macchinisti. Gli investigatori stanno ricostruendo perché quel deviatoio, il pezzo sotto accusa dello scambio, non fosse allineato. Al chilometro 166 la manutenzione quella notte non era ordinaria, ma resa necessaria da un guasto, confermano inquirenti, e terminato l'intervento sul deviatoio, poiché il problema persisteva, quel pezzo viene isolato e messo nell'unica posizione che poteva assumere, cioè diritto. E allora perché era invece aperto? E tra l'altro quel pezzo non poteva essere manovrato solo in modo manuale. Alla centrale di Bologna lo scambio risultava disalimentato ma nel tracciato corretto. È per questo che ora si indaga su un'ipotesi di falla nel sistema di comunicazioni e controlli, mentre si stanno effettuando rilievi sui binari nella prospettiva di esami irripetibili con i necessari primi indagati. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo adesso al processo denominato 'Ndrangheta stragista. Fanno discutere le parole del boss di Cosa Nostra, Giuseppe Graviano. Ho incontrato 3 volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitante, lo ha dichiarato il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano, condannato all'ergastolo, che ha deposto in videoconferenza nel processo 'Ndrangheta stragista che si tiene a Reggio Calabria. Graviano è accusato, insieme a Rocco Santo Filippone, vicino ai piromalli di Gioia Tauro, di essere mandante dell'agguato in cui furono uccisi i carabinieri Giuseppe Fava e Antonino Garofalo nel 94 nell'ambito del progetto stragista di Totò Riina. Secondo Graviano, Berlusconi, prima di scendere in politica, avrebbe chiesto di essere aiutato in Sicilia, ma molte delle attese che la mafia aveva posto in lui furono deluse, come quelle sul regime carcerario del 41 bis e sull'abolizione dell'ergastolo. Per questo, ha detto Graviano, ho definito Berlusconi traditore. Il boss ha detto anche che suo nonno, facoltoso commerciante, era in contatto con Berlusconi per alcuni investimenti nella realizzazione di Milano 3. Il legale di Berlusconi, Niccolò Ghedini, in una nota afferma che le dichiarazioni sono totalmente e platealmente destituite di ogni fondamento e che Graviano avrebbe reso dichiarazioni chiaramente finalizzate ad ottenere benefici processuali o carcerari. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E siamo al caso Vannini. La Cassazione ha deciso di ordinare un nuovo processo d'appello per l'omicidio di Marco Vannini, il giovane di 20 anni ucciso alla Dispoli sul litorale romano mentre era a casa della sua fidanzata Martina la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, dopo essere stato colpito da uno sparo di pistola dal padre della ragazza, Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare, distaccato ai servizi segreti e lasciato poi il ragazzo agonizzante tra atroci sofferenze per 110 lunghissimi minuti prima che venissero chiamati i soccorsi. Ciontoli aveva paura di perdere il lavoro se si fosse saputo che era stato lui a sparare. Gli Ermellini hanno così dato ragione al ricorso dei familiari di Marco e nel corso di questa puntata, vi effetto note, sarà ospite il legale della famiglia Vannini. All'estero, Stati Uniti, Donald Trump, presidente americano, prepara la resa dei conti non solo con i democratici ma anche con gli esponenti dell'amministrazione che hanno testimoniato contro di lui nel procedimento di impeachment. Secondo fonti del Washington Post, il presidente si prepara a cacciare Alexander Vindman, ufficiale del Consiglio Nazionale di Sicurezza, che dovrebbe essere riassegnato al Pentagono. Trump potrebbe liberarsi anche del capo dello staff della Casa Bianca, Mike Mulvaney, la cui posizione, secondo fonti riportate dai media, appare in questione sempre più in bilico. Al presidente americano non sarebbe piaciuto il modo in cui Mulvaney ha gestito la delicata situazione nei mesi dell'impeachment. Nuova tragedia in casa Kercher. Nella famiglia di Meredith Kercher, il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007, è morto nelle scorse ore per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra 3 settimane fa. John Kercher, 77 anni, si è spento in ospedale. Dopo l'episodio aveva ripreso conoscenza, ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo. La polizia ritiene comunque che fosse stato vittima di un tentativo di rapina. Clima: dall'altra parte del mondo, nell'emisfero australe, è estate, ma che ci siano temperature primaverili in Antartide è una cosa strana. Un nuovo record di 18,3 gradi è stato infatti registrato proprio nella terra dei ghiacci dalla stazione Esperanza, posizionata sulla punta settentrionale della penisola. Tempo quindi da maniche corte o quasi. È stato battuto il precedente record di 17,5 gradi stabilito soltanto 5 anni fa a marzo. Ad accendere i riflettori, un tweet dell'Agenzia Meteorologica Argentina. Secondo gli esperti si tratta di un segnale di come la febbre del pianeta in Antartide stia avanzando molto più velocemente della media globale. Tra i motivi alla base di accelerazione ci sono anche una combinazione di elementi naturali come per esempio i forti venti da nord-ovest. E a questo proposito poi, se avremo tempo, chiederemo al nostro meteorologo di fiducia. C'è poi il calcio in campo: Roma-Bologna, partita che apre la 23esima di Serie A maschile. Ibrahimovic è pronto per il derby, ma qual è il risultato parziale al momento? È quello di 2-1 per il Bologna per il momento. E poi, per chiudere, Sanremo: prove tecniche di pace dopo le polemiche forti tra Fiorello e Tiziano Ferro. Ancora boom di ascolti comunque al festival, 54,5% di share, il migliore risultato ieri dal 1997. Dopo ci collegheremo con la nostra inviata. Intanto piccola pausa per aggiornare chi si sta muovendo e poi insieme agli ospiti cominciamo ad affrontare alcuni argomenti in primo piano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre, lo sapete, ricchissimi di informazioni, aggiornamenti in diretta, sintesi della giornata all'inizio e poi alcuni degli argomenti invece affrontati in profondità con gli ospiti. Roberta Giordano, naturalmente sempre con voi. Allora, parleremo naturalmente di politica, poi gli aggiornamenti sul coronavirus e poi, tra le cose più importanti, la sentenza della Cassazione sul caso Vannini. Ma direi, intanto, mentre vi ricordo la vostra possibilità di interagire qui con Effetto Notte, quando volete c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure li potete scrivere inviandoli via SMS o WhatsApp al 349 238 6666. E adesso partirei con la politica. Ma anche noi eravamo molto perplessi su questa riforma e abbiamo denunciato i limiti, poi abbiamo visto però che sono stati fatti dei passi avanti. Io spero che, ripeto, ci siano nei prossimi giorni anche spazi per riflettere anche alla luce delle modifiche al processo penale. Questo era Graziano Del Rio del Partito Democratico sul quasi inaspettato, diremmo, accordo sul nodo caldissimo della prescrizione, un accordo raggiunto ieri proprio in extremis al vertice della maggioranza. Finché è durato Effetto Notte, fino alle 22 qualcosa, non c'era notizia di accordi. Invece, evidentemente, più che la notte portare consiglio, la sera stessa ha portato consiglio, perché alle 22 pochi minuti è emersa appunto la notizia di un accordo raggiunto nella maggioranza tra le tre delle quattro forze del governo, cioè Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, mentre Italia Viva di Renzi di nuovo resta un po' sulle barricate a proposito di questo tema. Renzi ha detto: questo accordo a tre, a mio avviso, non ha la maggioranza in Parlamento, parlando appunto di questa intesa. Dice: noi non vogliamo lasciare il governo, poi se il Presidente del Consiglio vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d'ora, capito Barbara Fiammeri? Poca roba, insomma, sì. Quindi diciamo, ha lanciato il suo messaggio molto chiaro, anche se Zingaretti, leader del PD, dice: ma Italia Viva mi sembra sempre piuttosto ambigua. Allora io direi di sentire intanto Orlando, ex ministro della giustizia del Partito Democratico, che parla appunto di questa intesa. Con l'accordo di ieri abbiamo superato gli effetti più distorsivi di una norma che non condividevamo. Adesso lavoriamo per rafforzare le garanzie nel processo penale e renderlo più efficace. Questo appunto Orlando, dopodiché Bonafede, diciamo, che è al centro di questa questione della prescrizione, perché è sua la legge che abolirebbe la prescrizione definitivamente, anche se appunto si è raggiunto questo compromesso che poi ci aiuterà Barbara Fiammeri a capire meglio. Sentiamo il ministro della giustizia Bonafede. Lunedì in Consiglio dei Ministri andrà la riforma del processo penale per garantire ai cittadini italiani certezza e brevità dei tempi del processo penale per quanto possibile e chiaramente con l'eliminazione di ogni tipo di isola di impunità. Questo è il punto più importante. Oh, Barbara, allora, intanto dal punto di vista, diciamo, dell'iter legislativo, che cosa succederà adesso che è stato raggiunto un accordo sul lodo Conte bis? Quindi quali saranno i prossimi passi? Il governo deve intervenire con una norma, perché come sappiamo la prescrizione è già in vigore dal 1 gennaio. Quindi deve intervenire con una norma che appunto contempli le diverse ipotesi rispetto alla riforma Bonafede sulla prescrizione e la porti in Parlamento. Quindi c'è l'ipotesi di un decreto legge? C'è l'ipotesi di un decreto legge. Adesso bisogna vedere però appunto cosa accadrà con Renzi, cioè se Renzi intende portare fino in fondo questa sua posizione. Di fatto al Senato la maggioranza non avrebbe numeri, o comunque sarebbero molto molto risicati, quindi Intanto sentiamo Buffagni cosa pensa di questa posizione. Buffagni del Movimento 5 Stelle cosa pensa della posizione di Italia Viva? Il ministro Bonafede ha dimostrato la sua sensibilità alle esigenze del governo tutto, quindi non solo della parte che lui rappresenta, e quindi ha trovato secondo me una soluzione ottima. Se Italia Viva vorrà lavorarci in Parlamento col decreto che mi pare sia stato annunciato, ben venga. Se vuole, come sempre, rimarcare una posizione da Gian Burrasca, secondo me gli italiani sono stufi di queste cose e credo che gli italiani vogliano che si lavori tutti per sveltire i processi. È paradossale che in questo paese non si stia discutendo per sveltire i processi, ma si discuta della prescrizione. Renzi Gian Burrasca, Barbara, quindi? Ma insomma, sì, Renzi ovviamente fa un gioco, una sua partita politica, però rispetto a queste affermazioni mi verrebbe da sottolineare che si è cominciati dalla fine, perché se veramente l'obiettivo del governo, di questo governo, così come del precedente, ricordo, era quello di sveltire i processi, mi chiedo perché il ministro della giustizia ha avuto per due volte il ministro della giustizia nel Conte 1 e il Conte 2, e l'unica cosa che hanno fatto è stata la prescrizione, mentre l'abolizione della proscrizione, mentre sui tempi del processo, del processo penale in particolare, ma anche di quello civile, è tutto langue. Però adesso ha detto che da lunedì si riparte. Ci sarà che ci sarà un'accelerazione. Cioè, il problema non è, perché se no la buttiamo sempre, come si dice, in caciara, e il problema è molto semplice: non è pensabile in un paese democratico che una persona sia sottoposta ad indagine, a processo, senza che ci siano dei limiti. Cioè, questo non è possibile, non è neanche giusto che gli imputati e i loro avvocati giochino con i tempi del processo per evitare di essere, di arrivare a sentenza. In modo che poi dopo scade il processo e non se ne fa più nulla, no? Bisogna trovare l'equilibrio. Sì, però adesso siamo al paradosso che invece neanche più, cioè, il magistrato può portare avanti tranquillamente il processo e uno può essere sotto processo per anni. Però in questo caso, Barbara, il lodo Conte bis mi pare che riguardi il fatto di annullare la prescrizione nel caso, dopo che il primo grado, ci sia una sentenza di condanna, no? Mi pare che sia questo. Sì, il problema qual è? Adesso nel nuovo compromesso che hanno trovato, se si viene praticamente assolti in secondo grado, a quel punto viene ricomputata anche la prescrizione, no? Però, cioè, anche qui, ma... Barbara, cioè, sei? Che sia che non, sì. non sia costituzionale un diverso trattamento tra condannati di primo grado e condannati di secondo grado, perché la nostra Costituzione prevede due gradi di giudizio e poi il giudizio della Cassazione. Fino a quel momento siamo tutti innocenti. Allora, però questo appunto è un tema poi che casomai dovrà risolvere la Corte Costituzionale. Ma in ogni caso è evidente che c'è un problema, ripeto, il problema sono i tempi del processo. In Italia troppo spesso, ogni volta, per un motivo o per l'altro, si aggrediscono le questioni dal lato sbagliato, o meglio, dal lato più propagandistico. E sinceramente questo delle prescrizioni a me sembra molto, cioè ci sia molta propaganda politica, nel senso che se avessero nel frattempo portato avanti la riforma del processo penale, dei tempi del processo, allora questa posizione di Bonafede sulla prescrizione sarebbe stata molto più condivisibile e credibile soprattutto. Adesso, cioè, intanto è vero che la prescrizione, essendo entrata in vigore il 1 gennaio del 2020, quindi non è che ci sono adesso dei soggetti, vale per i reati che sono commessi d'ora in poi, diciamo. Sì, e quindi per i precedenti vale il vecchio regime. Però, e quindi non c'è questa cosa, anche qui l'allarmismo che viene fatto come se adesso fosse cambiato tutto. No, non è così. Però non c'è dubbio che sui tempi del processo penale invece assistiamo al solito balletto che sentiamo dal precedente governo, perché se vi ricordate l'accordo che fece il Movimento 5 Stelle, Bonafede, con la Buongiorno, che allora era ministro della pubblica amministrazione, ma di fatto seguiva anche tutto il tema giustizia per la Lega, era proprio quello che la prescrizione comunque sarebbe, la norma sulla prescrizione sarebbe stata cancellata qualora non fosse stata portata a termine la riforma del processo penale. Questo governo è ricominciato nello stesso modo, ma la riforma del processo penale non c'è ancora. Però Bonafede ha detto adesso acceleriamo, vedo diversi messaggi. C'è per esempio questo ascoltatore che dice: Renzi è uscito dal PD per tenerli in pugno i partitini, mentre quest'altro ascoltatore, a proposito della prescrizione, dice: questa legge sulla prescrizione costringerà la politica a velocizzare i processi. Al di là di questo sentiamo anche l'opposizione, sentiamo per esempio il leader della Lega Salvini. Sulla giustizia non si può arrivare a un compromesso, ma anche sulle autostrade ci sono investimenti di miliardi di euro fermi, perché nessuno ha ancora capito se revocano la concessione, non revocano la concessione. È un governo che rinvia tutto. Noi su alcuni temi già settimana prossima porteremo in Parlamento idee chiare sul rinnovo delle concessioni delle autostrade, sulla riforma della giustizia, sulla tassa sulla plastica, sui decreti sicurezza. La Lega offrirà possibilità di confronto anche alla maggioranza, basta che non ci offrano altri 38 rinvii. Un governo fondato sul rinvio non è possibile. E poi per Forza Italia Anna Grazia Calabria. Un processo senza fine è la fine della giustizia e noi di Forza Italia per i cittadini italiani non vogliamo un ergastolo processuale, anzi combatteremo in tutti i modi per garantire i loro diritti. Speriamo che anche la questione della prescrizione e del processo penale non vadano avanti all'infinito, che non se ne può più. Però Barbara, oggi c'è stata anche la direzione del Partito Democratico, il segretario Zingaretti mi pare ne sia uscito molto soddisfatto, e allora sentiamo questo suo commento. Una bellissima riunione della direzione nazionale, di un gruppo dirigente unito che ora ha due obiettivi: aiutare e sostenere questo governo a prendere il passo giusto per riaccendere i motori dell'economia del paese, e lo faremo con un grande spirito unitario e soprattutto, dopo Rieti, con i contenuti del piano per l'Italia che abbiamo messo in campo. Che dire Barbara, che cosa è emerso secondo te di più rilevante da questa direzione del PD? Ma mi sembra che Zingaretti sia sempre di più, cioè il Partito Democratico sia sempre di più il massimo sostenitore di Conte, perché poi quello che sta avvenendo politicamente in questa fase molto confusa in cui si discute di prescrizione, di autostrade, di Ilva, i ruoli, no, all'interno non solo del governo ma in prospettiva. E sempre più sembra che il Presidente del Consiglio sia un Presidente del Consiglio sostenuto anzitutto e soprattutto dal Partito Democratico, e ricordo sempre che Zingaretti era quello che aveva messo il veto su Conte, e invece molto meno dal Movimento 5 Stelle, in particolare da Di Maio, che come sappiamo ha già annunciato che scenderà in piazza. Quindi di fatto mi sembra che si stiano creando una sorta di come possiamo dire, convergenze parallele, diceva Moro tanti anni fa, tra per esempio Renzi e Di Maio, no? Che hanno messo nel mirino Giuseppe Conte, e con Salvini che comunque guarda piacevolmente questa cosa, e dall'altra parte invece appunto il Partito Democratico che cerca di sostenere il Premier anche laddove appunto, come sulla prescrizione, le posizioni, la posizione del PD era assai più vicina a quella di Renzi, diciamo, che a quella di buona fede. Barbara, detto tutto questo, naturalmente ci aggiorniamo la prossima settimana, sento anche un po' la tua voce appannata, naso chiuso come me, non prendere freddo nel fine settimana, mi raccomando. No, ci tengo a te, sotto Barbara. Le coperte. Sotto le copertine, brava, con una bella tisana calda e tanto miele. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara, buonasera, detto Barbara, più o meno lo dico anch'io, però ci fermiamo solo momentaneamente, lo sapete, per un momento di riflessione, di respiro, e continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Notte oppure al 349-238-6666. Tra poco parliamo della sentenza della Cassazione sul caso Vannini, una storia veramente sconcertante, e poi aggiornamenti sul coronavirus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete mai dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. Questa è la mia sfida con voi, Roberta Giordano, ogni sera dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, nel raccontarvi a fine giornata tutto quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi gli approfondimenti da fare insieme agli ospiti di alcuni argomenti particolarmente rilevanti. Ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che si preoccupano della mia salute, un po' di febbriciato, un po' di raffreddore, mali dell'inverno, appena arrivato qua il vento violento a Milano per 2-3 giorni, e questo è il risultato. Ringrazio anche queste, le ragazze del Bar Tabacchi Rande Portico di Caserta, mille messaggi mi hanno scritto, ti ascoltiamo sempre, salutaci, va bene, ma non faccio di queste cose, solo questa volta un'eccezione. Adesso invece ci occupiamo di una cosa molto seria, è la sentenza della Cassazione sul caso Vannini. La storia, ve la ricordo sinteticamente, è quella di un ragazzo, Marco Vannini, appunto di 20 anni, morto il 18 maggio del 2015 in una vasca da bagno in casa della famiglia della fidanzata, Martina Ciontoli, alla Dispoli, vicino Roma. Era stato raggiunto da un proiettile che aveva colpito la spalla e poi era arrivato fino al cuore. Il padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, nell'iter processuale ha detto sempre che è stato lui a sparare, fidanzato di sua figlia, spiegando però che il colpo è partito per errore mentre lui gli mostrava l'arma mentre il ragazzo faceva il bagno. Per questo si era visto poi nel processo d'appello ridurre la pena da 14 a 5 anni, cioè non era stato più considerato un omicidio volontario ma un omicidio colposo. Ma oggi i giudici della Cassazione hanno deciso che invece si deve fare un nuovo processo, un nuovo appello bis per l'omicidio di Marco Vannini a carico di tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, principale imputato dell'omicidio. Secondo l'accusa, e quindi la requisitoria della procuratrice generale Elisabetta Cennicola, ad Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina, non sfuggì per errore quel proiettile dalla pistola, ma sparò proprio per uccidere. E tanto la moglie di Ciontoli, Maria Pezzillo, quanto i figli Martina e Federico, anziché prestare soccorso alla vittima, erano tutti in casa quando il 21enne venne colpito, cercarono solo di nascondere l'accaduto. Persero tempo prezioso, il ragazzo rimase agonizzante per circa 2 ore e quel tempo perso, la loro condotta, insomma, condannò Marco alla morte. È una vicenda gravissima, hanno detto i giudici, disumana, considerati i rapporti degli imputati con la vittima. Quindi i giudici hanno deciso appunto che c'è la sussistenza di omicidio volontario, che era stato riconosciuto in primo grado ma non in appello, e che adesso si deve fare un nuovo processo. Allora saluto immediatamente l'avvocato Celestino Gnazzi, che è legale della famiglia Vannini. Buonasera avvocato, grazie della disponibilità. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Come commenta quindi questa decisione della Cassazione, Gnazzi? Beh, naturalmente è una decisione per noi importantissima, perché riapre lo scenario che sembrava chiusa da una sentenza di appello che noi abbiamo fortemente criticato e osteggiato. Ora sarà fondamentale, la Corte di Cassazione oggi pomeriggio ha accolto il ricorso della Procura Generale ed il ricorso nostro della parte civile. E ora dovremmo attendere, diciamo, i 30 giorni che serviranno per il deposito delle motivazioni, per vedere precisamente qual è l'effetto di questa pronuncia della Cassazione. Di sicuro gli scenari si riaprono, noi con ricorso sia alla Procura Generale sia avevamo richiesto di inquadrare il comportamento tenuto dall'intera famiglia non sotto il profilo di un omicidio colposo ma sotto il profilo di un omicidio volontario. C'è l'accoglimento di questo ricorso, quindi lo scenario viene completamente riaperto. Avvocato Gnazzi, la mamma di Marco, che sta facendo questa battaglia appunto dal 2015 per avere giustizia, oggi ha detto: avevo perso la fiducia, ma questa sera posso dire che la giustizia esiste e vado a testa alta, non si molla e Marco avrà giustizia. La verità non la sapremo mai, ma ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine. Perché, Gnazzi, la famiglia continua a dire che è partito per errore questo colpo, voi invece pensate che per quale motivo doveva aver voluto uccidere il fidanzato di sua figlia, Antonio Ciontoli? Allora, guardi, il colpo in sé, secondo l'imputazione, secondo la curva, è partito accidentalmente. Il processo si fa per il comportamento successivo allo sparo, perché, secondo l'accusa, per poter assicurarsi l'impunità, tutta la famiglia ha agito a costo, con ritardi, depistaggi, ha impedito i soccorsi, a costo di far morire quel ragazzo, come se l'ha fatto morire. Questo perché Antonio Ciontoli temeva, ex ufficiale dell'esercito, di perdere il suo lavoro se si fosse saputo che era stato lui, per questo hanno coperto fino a... Esattamente, la perdita del posto di lavoro era uno dei motivi, secondo me il motivo sostanziale era assicurare l'impunità a tutta la famiglia per quello che era successo. Comunque sì, l'impatto immediato, il timore immediato dichiarato dallo stesso Ciontoli era il timore di poter perdere il posto di lavoro e comunque di avere conseguenze negative sotto il profilo economico da quello che era successo. Per questo, ripeto, hanno lasciato muraggendo in questo modo, e pur prevedendo come altamente probabile la morte di quel ragazzo, l'hanno lasciato morire. Perché è morto praticamente dissanguato, insomma, agonizzante, no? Sono passate 2 ore da quando è rimasto colpito. Esatto. Infatti non è morto sul corpo, è morto per dissanguamento, non per lesione degli organi vitali. Esatto. Quando dovrebbe iniziare questo processo d'appello, avvocato Gnazzi? Questo non lo sappiamo, possiamo prevedere certamente entro l'anno. Va bene, insomma, quindi si riapre una speranza di raggiungere la verità, la giustizia, come dice la mamma di Marco, speriamo che sia questa volta la volta buona. Grazie avvocato, sì. Celestino Gnazzi. Diciamo che abbiamo trovato, si trova un giudice a Berlino, perché la sentenza di secondo grado veramente ci aveva lasciato perplessi e veramente amareggiati. Grazie di nuovo avvocato Gnazzi. Grazie a voi. E buon lavoro. A voi. Grazie. Invece adesso parliamo di coronavirus, degli aggiornamenti. Allora, l'epidemia continua ad avanzare, avendo nella Cina il suo epicentro sempre. Sebbene dopo il picco di quasi 4.000 nuovi contagi registrati in un solo giorno, il giorno del record è stato il 5 febbraio, gli ultimi dati mostrerebbero che il numero di casi confermati è calato per due giorni consecutivi. Sono attualmente 31.264 i contagi complessivi, di cui 482 in condizioni gravi, mentre i morti salgono a 638, le guarigioni sono 1753. In tutto il mondo, questo è l'allarme lanciato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si stanno esaurendo le mascherine e gli strumenti di protezione per l'epidemia. Per quanto riguarda l'Italia, il 29enne che è stato infettato effettivamente dal coronavirus è risultato positivo ed era alla Cecchignola con i 56 italiani che erano rientrati da Wuhan con un volo militare, dice di sentirsi tranquillo, sembrerebbe che sia per il momento in buone condizioni, e però ricomincia la quarantena per i 55 rientrati insieme a lui da Wuhan, perché visto che è stato trovato questo caso positivo devono passare di nuovo altri 15 giorni per essere sicuri che non siano malati. Allo Spallanzani, l'ospedale Spallanzani, attualmente sono ricoverati in 11, 5 in attesa del risultato del test e sono ancora in terapia intensiva le due persone, la coppia di cinesi che è stata la prima ad essere positiva in Italia. Ancora i voli Italia-Cina, ha detto oggi il ministro degli esteri Di Maio, sono chiusi. Una notizia positiva è che i 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio con il comandante Gennaro Arma, stanno tutti bene sulla nave da crociera Diamond Princess. Ora, dopo tutto questo, c'è una cosa importante, targata Italia, che riguarda l'origine del virus, nel senso che è stata fatta la più grande analisi comparativa del genoma del virus, che confronta ben 56 altre ricerche pubblicata sul Journal of Medical Virology del gruppo dell'Università di Bologna, coordinato dall'esperto di bioinformatica Federico Giorgi, che saluto. Buonasera Giorgi, buonasera professore. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Quindi di nuovo, insomma, avete più o meno confermato, forse manca ancora qualche elemento definitivo, che sarebbe stato originato dai pipistrelli? Guardi, il nostro studio conferma che la sequenza più vicina deriva da un virus di pipistrello, tra l'altro rinvenuto in una zona molto lontana da Wuhan, nel sud-ovest della Cina. Però è notizia di oggi, dalla rivista Nature, che una sequenza ancora più vicina è stata trovata in un virus di pangolino. Il pangolino, anch'io l'ho dovuto cercare, non sapevo, non è un animale noto, è un piccolo armadillo, viene usato molto nella medicina tradizionale cinese. Quindi potrebbe essere, adesso se ne sta discutendo animatamente nella comunità scientifica, potrebbe essere lui la causa, il portatore del virus zero, quello che poi ha infettato tutti i pazienti e quello che il nostro studio ha dimostrato essere molto poco mutabile. Infatti tutti i genomi di questo virus che abbiamo analizzato, provenienti sia dallo Spallanzani che dalla Cina, sono praticamente identici fra di loro, e quindi questo è abbastanza ottimistico, perché se il virus muta poco, una eventuale terapia potrebbe curarli tutti in un colpo solo. Perché chiaramente i virus si evolvono proprio per rinforzarsi rispetto ai contrasti nei loro confronti, no? Quindi sì, cambiano, si modificano, si adattano. Evolutiva, come per tutte le specie. E ci sono alcuni virus che mutano molto rapidamente, come l'HIV, il virus dell'epatite C, mentre altri virus, come a suo tempo la SARS, questo nuovo coronavirus, mutano poco per loro natura, non riescono a mutare velocemente e a mantenersi vitali. E questo è un vantaggio per noi esseri umani, perché possiamo debellarli tutti e corriamo, forse speriamo, più veloci di loro nelle loro mutazioni. Professor Giorgi, quindi una cosa certa mi pare al momento, che si evolve poco, che cambia poco questo virus. Quindi questa è una certezza che abbiamo al momento? Al momento sì, noi abbiamo analizzato 56 genomi, come dicevo, provenienti da vari ospedali del mondo. Al momento sono saliti a 72, manca ancora il genoma che lo Spallanzani sta preparando in questi minuti del terzo paziente italiano. Però al momento tutti i genomi che abbiamo identificato sono identici, se non per alcune differenze in proteine accessorie che non sappiamo... non hanno l'importanza principale nella struttura del virus e sembrano mutazioni silenti. Però professore, quindi alla fine viene dai pipistrelli o da questo pangolino? Guardi, 3 ore fa le avrei detto dai pipistrelli, adesso non lo so, sinceramente, non abbiamo ancora... Il problema è Nature, che è una delle riviste più prestigiose, certo, del campo biomedico, ha pubblicato non un articolo, ma una dichiarazione di un'università cinese che ha detto di aver dimostrato l'origine di un'università del Guangzhou, si chiama. Mm-hmm. E due suoi ricercatori, Sheng Yongyi e Xiao Liwa, hanno detto che hanno trovato un virus al 99% identico a quello umano in un pangolino, e quindi però l'articolo originale e la dichiarazione originale è in cinese, quindi io non ho avuto modo di tradurla, non so il cinese purtroppo, e quindi ci ancoriamo a quello che dice Nature, che comunque è cauta sull'argomento. Quindi per ora l'unica certezza è che il virus più vicino all'uomo è quello del pipistrello, uno dei virus del pipistrello, perché ce ne sono tanti di coronavirus del pipistrello. E questo, oltre al fatto che muta poco, il fatto di capire da dove venga può aiutare meglio ovviamente a vincerlo, professor Giorgi. Sì, anche perché all'inizio si pensava che provenisse dalla SARS, ma il virus della SARS è molto diverso, è all'80% identico, che però nella genomica è molto. Si pensa che, non so, noi gli scimpanzé siamo simili al 99,5%. E infatti anche questa notizia di questi giorni, i farmaci contro la SARS non sembrano efficaci contro questo virus, come i corticosteroidi o altri che colpiscono la superficie della SARS, non sono così efficaci con il neocoronavirus. Quindi bisogna lavorarci, lavorarci chiaramente, insomma, come sta facendo per fortuna tutto il mondo, naturalmente anche l'Italia in primo piano. Grazie al professor Federico Manuel Giorgi, vi ringrazio. Ricordo, ricercatore del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna. Grazie professore e buon lavoro. Grazie, buona viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Questa fascia è perché ogni tanto mi vergogno di essere un uomo, ogni volta che c'è un femminicidio. Questo è il grande Piero Pelù dal Cuore Rock, in questo bellissimo gesto di ieri sera, dopo aver cantato la cover Cuore Matto, quando ha mostrato una fascia a luto sul braccio, motivandola con quello che ha detto. Per l'appunto dice: mi vergogno di essere un uomo ogni volta che sento parlare di un femminicidio. Se tutti gli uomini avessero il cuore e la testa di Piero Pelù, non esisterebbe ovviamente la violenza contro le donne. Anche questo è successo ieri al Festival di Sanremo, che continua di sera in sera a macinare record ascolti. Sarà anche forse per un passo indietro in qualche modo che ha fatto il conduttore Amadeus dopo la gaffe sulla quale era scivolato a proposito delle donne che devono stare un passo indietro rispetto agli uomini, è tornato a suo favore probabilmente questo tipo di conduzione. Intanto, a proposito di uomini, intanto saluto Marta Cagnola, una donna, Marta, perché c'erano due primi uomini che almeno fino a qualche ora fa sembrava che si contendessero la visibilità, gli orari, polemiche, botte e risposta, tu mi butti addosso gli haters, gli odiatori, no, sei tu che mi fai comparire soltanto dopo mezzanotte, Fiorello e Tiziano Ferro. Mi pare che abbiano fatto pace? Sì. Allora, pare che abbiano fatto pace perché Fiorello ha postato una foto abbracciato a Tiziano Ferro con scritto fatevene risata. Allora, cos'era successo? Andava molto lunga la puntata, Tiziano Ferro si stava esibendo troppo tardi e a un certo punto Tiziano ha detto Fiorello state zitto, come per dire Fiorello che parla troppo e quindi allunga troppo la puntata. Esatto. Pare che questo conflitto sia rientrato, insomma. Intanto però in questo momento c'è la proclamazione del vincitore delle nuove proposte, cioè la, sono rimasti gli ultimi due candidati, Leo Gassman, che sono Tecla, sì, e Leo Gassman, insomma, in questo momento sta arrivando la busta. Sentiamolo, Marta. È il primo verdetto. Sentiamo. Andiamo, eccolo qua, il presidente della regione Toti. Liguria, Giovanni Toti, presidente. Con il premio. Beh, intanto sì, posso dirti che il premio della critica che ha tributato la nostra sala stampa è andato agli Eugenio in via di Gioia, mentre il premio della sala di TV, radio private e web è andato proprio a Tecla. Per quanto riguarda i giovani. Sì, per quanto riguarda i giovani, i big si sapranno domani. Noi appunto abbiamo tributato il nostro premio agli Eugenio in via di Gioia, che hanno fatto il Sanremo più breve di tutti, 8 minuti sono di Sanremo e subito spariti, buttati fuori, però sì, ci sono piaciuti moltissimo, quindi secondo me è un premio molto molto molto meritato. Senti, invece per i duetti, perché adesso vedo Toti che parlerà per un po', per i duetti ieri io avevo apprezzato moltissimo in effetti quello di Tosca e di Silva Perez Cruz, no, la cantante spagnola, in effetti sì, mi pare che sia molto bello, sono arrivati primi, però l'altro verdetto, beh, insomma provvisorio di questa sera è la classifica combinata, cioè ieri sera Tosca era arrivata prima nella classifica dei duetti, per i duetti, nella classifica combinata quella delle prime due sere votate dalla giuria demoscopica e quella di ieri sera dell'orchestra, per ora in testa c'è Francesco Gabbani. Ma per ora. Sentiamo Marta, sta arrivando il verdetto per i giovani. La sala stampa, 34% il televoto. Solita suspense. Con il può soffrire chiaramente. 52,5%. Secondo me Gassman, vediamo. In totale. Sentiamo. Si aggiudica la categoria Nuove Proposte del 70° Festival di Sanremo. Tira fuori dalla busta. Sì. Leo Gassman! Ciao, lo davo abbastanza per scontato. Lui era stato anche X Factor, no Marta? Cercando. Lui era stato anche X Factor, devo dire, era molto amata anche Tecla, perché sta passando molto nelle radio. Il pezzo sta passando molto nelle radio. Devo dire che io ti confesso, ho votato per lui perché oltre a essere bravo è anche un ragazzo. Ti piace? No, è carino, è gentilissimo, molto dolce, è un ragazzo di una dolcezza, di una gentilezza, di una capacità di esprimersi, di spiegarsi, di porgere la sua musica, che ti incanta, perché è proprio secondo me un ragazzo che musicalmente può crescere moltissimo. Vabbè, Marta è già innamorata, figlio di Alessandro, nipote di Vittorio, no? Sì. Devo dire che se avessi 15 anni avrei un suo posto in camera. Visto che non ho 15 anni, diciamo che lo guardo come un figlio. È veramente un ragazzo che secondo me ha un bellissimo margine per crescere. Marta, allora farei sentire, giusto così per sentire un po' di musica, ieri il duetto Tosca e Silvia Perez Cruz, con la canzone, ha fatto la cover, cioè ha rifatto una canzone di un grande autore come Lucio Dalla. Sentiamo Piazza Grande. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Fermo la erba, è solo mio, sconto a me, all'ande amore in Piazza Grande. Beh, molto sensuale anche questo spagnolo così vibrato. Molto, molto, bello, molto sensuale. Beh, secondo me una delle veramente delle cover migliori di ieri sera, insieme sicuramente anche a quella più scenica, più originale, Achille Lauro, Diodato, anche quella di Achille Lauro, non mi è dispiaciuto. Una bella performance. Marta, pronostici, visto che domani è l'ultima serata e sarà l'esito. Allora, sì, posso che dobbiamo capire come saranno i voti di questa sera, perché cambia ancora tutto, perché noi votiamo questa sera, non ha mai votato la stampa, votiamo questa sera. Quelli che si stanno piazzando più alti tra i favoriti sono Francesco Gabbani, Piero Pelù, Le Vibrazioni. Secondo me questa serata possono salire di quota anche Diodato e Tosca, però attenzione anche ai Pinguini e ai Tattici Nucleari. Senti, ospite di stasera, ospite che insomma particolarmente eccezionale. Allora, c'è Dua Lipa, che piace tantissimo ai giovani, è un ospite davvero non di quelli che sembrano ospiti famosi ma non conosce nessuno. Poi c'è Tony Renis, sempre per l'omaggio alla nostalgia, alla fine l'effetto nostalgia di cui parlavamo qualche tempo fa. Io, secondo me, ci sarà qualche duetto con Tony Renis, secondo me, appunto, arriverà qualche duetto. Poi c'è Gianna Nannini. Oh, grazie Marta Cagnola. Allora, buon divertimento, buon ascolto. Ciao Marta. A presto. Adesso non so se avrà, diciamo, l'intonazione per cantarcelo queste previsioni meteo, il nostro Paolo Corazzoni di Trebi Meteo. Paolo, potresti anche tentare. Dopo Sanremo. No, figurati, no, ognuno faccia il suo, io faccio le previsioni, ma parlate. Comunque, se posso, faccia il suo, sì. Sì. Il brano di Elodie e quello di Anastasio, che in realtà non vengono considerati da nessuno. Hai visto? Paolo, io... si pronuncia anche su Sanremo, no? Elodie, mi è piaciuto. Invece ci piacerà il tempo di questo fine settimana, caro Paolo? Sì, guardate, sta un fine settimana tranquillo, non succede nulla di particolare. Domani, soprattutto, giornate di sole in tutta Italia, solo qualche nuvola proprio in Liguria, ma senza conseguenze. Domenica qualche nuvola in più sulle regioni di nord-ovest e sul versante tirrenico, ma in realtà anche lì senza conseguenze particolari, quindi un weekend più che discreto, con temperature che tornano piano piano a salire. L'unica cosa, vi segnalo per l'inizio della prossima settimana, l'arrivo di parecchio vento. Lunedì e martedì giornate ventose. Non se ne può più, sai, mi sono ammalata per il vento io. Sì, papà mia, nel centro nord dell'Europa, tra l'altro l'Africa a più di 150 all'ora, noi per fortuna non così, ma appunto vento tra lunedì e martedì, non freddo ma vento, quello da tenere in considerazione, ecco. E va bene, mettiamo il giacchetto. Grazie Paolo Corazzoni di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Ci sentiamo alle 22.